Episodio 6. 15-16. Ascolta il racconto. Allora, ti volevo raccontare una storia che ieri mi ha colpito molto. Come sempre sono andata a prendere Lavinia, lo sai, a scuola, e mi sono fermata poi con Lavinia e la sua amichetta al parco. E c'erano delle altre bambine che loro conoscono che giocavano con stelle filanti, coriandoli e tutto quello che i bambini generalmente usano a carnevale. Le bambine mi hanno detto: ma sì, vogliamo anche noi le stelle filanti, quindi sono andata un po' velocemente al negozietto che lì vicino a comprare un po' di queste cose. E devo dire che ne ho comprate abbastanza. Le bambine avevano due bombolette di stelle filanti, due sacchetti di coriandoli e poi le stelle filanti in carta. Siamo ritornate al parco e loro hanno cominciato a giocare con le amichette, tutto sembrava procedere tranquillamente, hanno anche condiviso con altre amichette queste cose, eccetera. Ad un certo punto io ero seduta alla panchina e si è avvicinata una bambina con fare, diciamo, piuttosto, vogliamo dire la parola, ladronesco, un atteggiamento da ladruncola di professione. La bomboletta che io avevo regalato a Marisabella, l'amica di Lavinia, era in una busta di plastica attaccata al passeggino del fratellino, e la mamma era vicino a me. E la bomboletta era stata usata, insomma, in grossa parte, la bambina l'aveva già quasi consumata, esaurita. La bimba che ti dicevo, che secondo me aveva più o meno 9 anni, si è avvicinata e con aria furtiva ha preso la bomboletta dalla busta, quindi entrando proprio in uno spazio altrui, e ha cominciato a usarla, a spruzzarla così. Devo dirti che il gesto mi è dispiaciuto veramente, perché aveva non so che di non innocente che in un bambino disturba sempre. Ho fatto notare a Wanda, la mia amica, questa cosa, e anche lei è rimasta. Ho deciso, insomma, di alzarmi e di parlare con questa bambina. Ho detto: ma senti, guarda, io avevo regalato questa bomboletta a Maria Isabella, dico, forse avresti dovuto chiedere a lei il permesso di usarla. E lei, con una gran faccia tosta e con prontezza, ma una prontezza che mi ha lasciato un po' di stucco, mi ha detto: io ho trovato la bomboletta per terra. E io, con altrettanta prontezza, devo dirti, le ho risposto che no, che io l'avevo vista prendere la bomboletta dalla busta. Però ecco, ti confesso che, nonostante il mio essere generalmente una mamma chioccia, sempre molto dolce coi bambini, eccetera, ho avuto un istinto rabbioso e la voglia di mollarle uno schiaffo, uno di quegli schiaffi di un tempo, quelli, insomma, senza spiegazioni e senza perché. Naturalmente non l'ho fatto, pena l'essere considerata una persona incivile, però veramente ribadisco, confesso il desiderio di aver provato il desiderio di farlo.